24 mattino. 17 minuti 25 secondi, eccoci, 24 mattino, la mitragliata delle notizie che volano come raffiche. E allora, il tempo, pagina 2-3, un'indagine interessante, diversa da tutti gli altri, sulle carceri colabrodo. La firma Silvia Mancinelli nell'apertura del giornale diretto da Gianmarco Chiocci. E sentite cosa succede nei penitenziari italiani: troppi detenuti e pochi agenti, e così darsela al gambe, scrive la Mancinelli, diventa un gioco da ragazzi. I numeri: nella prima metà del 2017 ben 66 persone sono riuscite a fuggire. Non solo evasioni, nelle prigioni entra di tutto, dalle armi ai cellulari, ne scappano 6 al mese. Allè! L'avete sentita la storia del dirigente, anzi del candidato di Fratelli d'Italia che aveva chattato con Spada? Si trattava ovviamente di un candidato non eletto, ma è scattata su di lui la scure del movimento della Meloni, che ha detto: non si può parlare con un pregiudicato, non si può parlare a Ostia con uno che rappresenta i clan. E così Dario Cologgi è stato mandato via con un calcio nel sedere. Via! Si parla tanto della vicenda della sanità, si è parlato tanto del Trota, ve lo ricordate? Il Trota era un simbolo di un malcostume, di un qualcosa che noi rifiutavamo, era andato a prendersi la laurea in Albania. Ebbene, medici ad ogni costo, meritoria inchiesta della Stampa a pagina 10 e 11, il pezzo di Michele Sasso ci regala un dato sconvolgente: il business delle iscrizioni all'estero, agenzie tutto incluso, vendono agli studenti italiani il modo per diventare dottori, medici, e per chi non supera il test di ammissione delle facoltà italiane c'è un pacchetto tutto incluso, 25.000 euro e te ne vai in Bulgaria, in Romania e Croazia per diventare medico. Sì, poi attenzione a farsi curare, Va bene, una sciocchezzuola, ma è di quelle che mi fanno ridere. Ogni tanto salta fuori un espertone che ti dice qualcosa e questo fa male, questo va bene. Massimiliano Lenzi, sulla prima pagina del Tempo, ci racconta che un'importante psicologa sostiene che le canzoni di Natale, prima del tempo, a novembre, fanno male. Hai capito? Fanno male le canzoni di Natale, sì, perché costruiscono l'aspettativa psicologica di star bene e stare meglio, e poi dentro subiamo un trauma interiore. Ma vai, dai. Allora, giustamente Lenzi ricorda Jack LaMotta: eravamo così poveri che a Natale il mio vecchio usciva di casa, sparava un colpo di pistola in aria, poi rientrava e diceva: spiacenti, ma Babbo Natale si è suicidato. Ale! Numeri per chiamarci, segreteria telefonica per i vostri messaggi profondi, esistenziali, mistici, 02 30 22 4492, e poi li risentite nella pagina dei Già Svegli. Gli sms per navigare con noi: 349 238 6666, e la segreteria, e il numero per chiamare in diretta: 800 24 00 24. Già fioccano dei messaggi, alcuni me li sono appuntati. Ma perché oggi hai parlato soprattutto di politica e di finanza? Perché i giornali parlano soprattutto di politica e di finanza. Tant'è vero che solo un argomento ottenuto per questa parte in più è quello del cosiddetto Weinstein italiano. E poi l'Atari: ma chi ha fatto l'errore di calcolo? Ce lo state chiedendo, perché non ci si crede, lo ha fatto lo Stato, cioè lo hanno fatto i comuni, ed è una piccola macchia. Buongiorno, Roberto Speranza con noi, leader del MDP. Allora, i giornali di oggi sono pieni degli echi di questa assemblea di campo progressista. Ci sono due retroscena opposti, come capita. Uno su Repubblica dice che Grasso vorrebbe precettare in un ticket la Boldrini. Sul Corriere della Sera. Uno su Repubblica dice che Grasso e la Boldrini sono in lizza per la leadership. Quale dei due, secondo Speranza, è più vero? Ma guardi, sono tutti retroscena che non credo interessino granché alle persone. Alle persone interessa se finalmente in Italia nasce una forza politica che è in grado di affermare un'alternativa, a partire dal lavoro, a partire dallo stop alla crescita dell'età pensionabile, a partire dalla scuola pubblica, dalla sanità pubblica, che dica stop a bonus, regali fiscali e punti sugli investimenti per la crescita. Questo va benissimo, poi, però vuoi una preferenza per il presidente del Senato Grasso? In qualche modo l'avete già espressa o no? Ma il presidente del Senato Grasso è sicuramente una persona di altissimo profilo, fa il presidente del Senato, quindi noi siamo molto cauti e prudenti quando si tratta di una carica dello Stato come questa, però non vi è dubbio che per noi il presidente del Senato Grasso è un punto di riferimento molto solido e molto forte. Quindi più della Boldrini, diciamo. Ma guardi, io non starei lì a fare giochi. E sia un po' concreto, Speranza, si getti, ci faccia capire. Le parole della Boldrini, perché la Boldrini ha detto con nettezza una cosa che io penso, e cioè che col PD in questo momento non si possono fare accordi, perché il PD è il partito del Jobs Act, è il partito della buona scuola, è il partito delle trivelle, ed è evidente che in questo momento abbiamo un'agenda politica diversa, altrimenti io non sarei uscito dal PD e non avrei dato vita ad un altro movimento politico. Neanche accordi tecnici? Ma guardi, accordi tecnici, stiamo parlando delle elezioni politiche, come si fanno a fare accordi tecnici alle elezioni politiche? Sono fatti, no? Ci fu la famosa desistenza del 96 in cui Rifondazione correva in alcuni collegi in cui non correvano i candidati dell'Ulivo. Non si poteva fare se si fosse addivenuto alla soluzione del voto disgiunto, ma con questa legge elettorale che purtroppo il PD ha voluto e ha approvato, non c'è più neanche voto disgiunto, quindi l'unico modo per prendere voti e mettere un candidato in ogni collegio, e per come stanno oggi le cose noi metteremo un candidato in ogni collegio per offrire un'alternativa ai cittadini italiani. Oggi il quadro questo è interessante, cioè tecnicamente la mancanza del voto disgiunto renderebbe dannoso sia per voi sia per il PD una desistenza. Certo, perché se non metti il candidato sul maggioritario, sull'uninominale, non prendi il voto sul proporzionale. Se invece ci fosse stato il voto disgiunto avresti potuto fare questa cosa. Allora io dico, il quadro oggi italiano qual è? C'è Renzi, c'è Berlusconi, c'è Salvini e c'è Grillo. Queste quattro proposte non rappresentano milioni di elettori italiani. A questi milioni di elettori italiani noi vogliamo dare un'alternativa, a partire dal diritto allo studio, dalla sanità pubblica, dal lavoro, dalle pensioni, le questioni che riguardano poi la vita degli italiani. E su questo ci impegneremo. A letto del conflitto che c'è in atto sulla Banca d'Italia, il retroscena della stampa che diceva la rottura fra Renzi e Visco risale addirittura al caso di Banca Etruria, al commissariamento di Banca Etruria? Ma ho letto chiaramente, non c'è dubbio che Renzi sta facendo una campagna mediatica per provare a rimontare su questo tema delle banche, perché se gli italiani pensano a Renzi e alle banche gli viene in mente subito la Boschi e Banca Etruria, su questo non c'è dubbio, però dovrebbe essere più attento, perché buttare Banca Italia dentro una campagna elettorale in cui vola fango da tutte le parti, secondo me è dai responsabili, e quindi il PD e Renzi dovrebbero su questo stare un po' più attenti, perché c'è un tentativo di rifarsi in qualche modo una verginità su questo tema, ma si rischia di commettere un errore gravissimo come quello di buttare fango su un'istituzione che comunque per il nostro paese ha una rilevanza e anche per il risparmio dei cittadini italiani. Allora, ci sono un po' di critiche anche per voi sui giornali, il titolo del Fatto Quotidiano, l'ho letto, dice: la sinistra nasce con il piede sbagliato perché vengono candidati solo quelli che erano già in Parlamento nella vostra lista, è vero? Lo può dire? Ma è del tutto falso, io non so come mai escono notizie del genere, tra l'altro noi l'assemblea del 2 dicembre, che sarà l'assemblea fondativa, verrà eletta attraverso un meccanismo di caucus, quindi un meccanismo democratico dal basso nel weekend precedente. Sulle liste chiederemo il consenso dei nostri elettori, le faremo in maniera democratica, quindi io non capisco sinceramente. Ci saranno senz'altro tanti elementi di innovazione, così come per noi non sarà chiaramente un pregiudizio essere parlamentare, perché essere parlamentare non è qualcosa di cui vergognarsi, non è il nostro modo di fare politica quello. Bene, allora grazie a Roberto Speranza, lo salutiamo, buongiorno e buon lavoro a lui. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, vi ricordo i numeri 800240024 per chiamare, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Oscar torna domani, niente di grave, un piccolo contrattempo come può capitare, gli facciamo i più grandi auguri e vi segnalo l'ultima cosa che mi ero tenuto, che forse potrà servire per il dibattito. è uscito fuori, dopo una strategia di annuncio dell'inchiesta delle Iene, il nome di Fausto Brizzi. Siamo tutti un po' attoniti. Un importante giornalista italiano, fra l'altro doveva uscire a giorni con un cinepanettone, adesso forse questo cinepanettone è congelato e non uscirà più. Già questo ci deve far riflettere, come dire, il giudizio su un regista mette in ombra anche il suo lavoro artistico. Dobbiamo decapitare i volti di chi finisce sotto accusa perché anche la loro opera artistica è messa in discussione. Io questo non lo so, penso che sia sbagliato, però vi dicevo, il pezzo da leggere oggi è quello di Gloria Satta sul Messaggero, uno dei pezzi, se ne parla su tutti i giornali, ma qui racconta le ragazze intervistate a Dino Giarrusso nel programma Italia 1, dopo settimane di allusioni, hanno fatto il nome di Brizzi, dettagliando fin nei particolari più scabrosi il suo comportamento durante i provini avvenuti nel suo studio a Roma in un loft arredato con immagini di fumetti e una vasca jacuzzi al centro della stanza. Una trasmissione shock, un racconto dell'orrore. Le giovani attrici hanno parlato delle improvvisazioni a sfondo erotico imposte dal regista, dei suoi approcci pesanti, della sua ricerca del contatto fisico con un'aggressività crescente, scrive la Satta sul Messaggero. Mi ha chiesto di spogliarmi, dice una. Me lo sono ritrovato nudo davanti. Ha cercato di baciarmi, dice un'altra. Una delle testimoni racconta addirittura che Brizzi è arrivato ad imporle un rapporto sessuale completo. Alcune affermano di averlo visto masturbarsi davanti a loro. Mi chiedeva di massaggiarlo, mi ha chiesto di girarmi e mi si è incollato alle spalle. Allora, qui il problema non è come in altri casi una sola denuncia, e qui ci sono 8 denunce che abbiamo sentito un istante fa nella sintesi e 10 secondo quanto riferito da Giarrusso, l'inviato delle Iene. Sembra che Brizzi, questo dicono le agenzie, lo dice Lanza, abbia ceduto le sue quote. Sicuramente è un momento grave nella vita, nella sua carriera artistica, professionale, umana, ma è grave anche per il cinema, per l'italiano e per il costume. Ci fermiamo per la pubblicità e ne parliamo insieme. Mattino. Rieccoci in studio, 8:33 minuti, e stiamo parlando di tante cose. Io ricordo sempre, perché come un messaggio per gli utenti, ricordatevi che ci hanno fatto pagare una tariffa raddoppiata in molte città italiane e si può accedere al rimborso. Questo è quello che esce fuori dal weekend. Sentiamo Francesco da Milano. Pronto Francesco, ci sei? Pronto, pronto, pronto. E se no andiamo Raffaele da Napoli, che si definisce nel traffico come una condizione esistenziale. Raffaele, vai. Sono qui nel traffico. Eccoci. Traffico in Piazza Garibaldi. E com'è? È denso? È decisamente da follia, perché piove. Napoli quando piove purtroppo è molto fascinosa, ma è anche molto caotica. Cosa volevi dire? Niente, io volevo portare la mia esperienza personale. Io ho 2 nipoti, una già laureata in medicina e chirurgia e prossima alla specializzazione, e l'altro che invece ha studiato alla Federico II. L'altro è invece in corso di laurea, però ad Arad, in Romania. A parte che non ho riscontrato i costi detti, perché lui paga semplicemente la retta universitaria e poi deve mantenersi lì, purtroppo. Eh sì, il pacchetto dei 25.000 proposto alle agenzie, secondo quanto racconta l'inchiesta della stampa, comprende tutto, mantenimento, Affitto, alloggio, tutto. Però la maggior parte, io sono stato lì, quindi ho conosciuto un po' di colleghi che sono, perché molti sono, tantissimi sono napoletani, si sono organizzati da soli, sono andati da soli, con un po' il passaparola, più che con l'agenzia. E risparmio. E tra l'altro devo dire che chi è in Romania, soprattutto in questa università, perché la mia esperienza è limitata a questa università, ha una capacità operativa maggiore rispetto a chi, per esempio, come la sorella si è laureata qui, nel senso che lì è molto più pratica e meno teoria. Forse anche i nostri medici avrebbero bisogno di una maggiore capacità interpretativa di quella che ma è la quindi Eugenio, dall'alto della tua esperienza di padre di 2 diversi studenti, dici quella in Romania è un'università competitiva? Sì, io avevo dei seri dubbi, alla fine constatando, perché poi mia moglie è medico, quindi parla con loro e mi rendo conto dai discorsi che fanno che forse l'uno è molto più teorico, l'altro è molto più pratico, e forse bisognerebbe anche qui da noi dare l'opportunità. C'è Francesco? Ho capito, grazie. Allora sentiamo se Francesco da Milano, che speravo che lo riuscissimo a recuperare, è riuscito a contattarci. Francesco? Buongiorno Teresa. Oh, buongiorno. Teresa, innanzitutto onore al merito a lei e a Giannino, alla vostra simpatia e competenza. Grazie. Senta, io volevo parlare della sinistra riguardo l'intervento di Roberto Speranza. Sì. Io vorrei dire a Speranza che è quasi un secolo, fra poco arriviamo al 2021 e quindi siamo un secolo che stiamo aspettando la lei parte sinistra unita. Dalla scissione di Livorno, bene. Esatto, e poi vorrei anche dire lasciamo il 1921 e arriviamo alla caduta del muro di Berlino dal 1983, dal 93, da quando poi insomma si è creato di Occhetto, diciamo con Occhetto, partiamo da Occhetto e finiamo a Renzi, abbiamo distrutto leader e segretari di partito, per cui io non vorrei aspettare un altro secolo, insomma, per cui il problema credo non sia Renzi, non sia il PD, ma è qualcosa che è dentro il DNA. Poi Speranza parlava di Rosatellum, Speranza forse si è dimenticato che nel 2005, a pochi mesi dalle elezioni, Unione, partendo da Mastella e finendo a Bertinotti, si accordò con il centrodestra e con il Cavaliere facendo sparire il Mattarello, insomma. Quindi vorrei dire a Speranza di guardare un po' la storia e guardare avanti e non indietro. Però il cosiddetto Porcellum, tutto giusto tranne una cosa, fu votato a maggioranza, fu votato dal Parlamento senza fiducia, ma a maggioranza. Se avesse mobilitato, insomma, Ciampi non avrebbe firmato, insomma. Ah, vabbè, questa è una... ci facevano, insomma, Va bene, allora firmiamo questa cartolina d'auspicio. Grazie Francesco, continua a sentirci. Eugenio da Napoli. Pronto? Pronto? Vai, ci sei. Salve, buongiorno. Buongiorno. Allora, io non ho seguito molto, molto a fondo la vicenda del regista che è praticamente stato oggetto delle denunce. Fausto Brizzi. Falso Brizzi, perfetto. Allora, però quello che diceva lei poc'anzi mi ha lasciato un attimino perplesso. La prima cosa è stata, ci sono 8 denunce se ho ben inteso. Sì, secondo le Iene 10 addirittura. Le faccio risentire la pillola che abbiamo, che hanno confezionato le Iene con tutte le attrici che hanno parlato, di cui le Iene hanno l'identità, che con voce distorta confermano però chi è il nome del regista di cui hanno parlato. Ci dici chi è questo regista? Fausto Brizzi. Il regista è Fausto Brizzi. Il regista è Fausto Brizzi. Fausto Brizzi. Il regista di cui parliamo era Fausto Brizzi. Allora, le dico come la penso. E secondo me, ovvio, questa è un'importante inchiesta giornalistica, però nulla è vero finché l'autorità giudiziaria non richiama queste signore o queste donne, non fa ripetere loro un'eventuale denuncia e non trasforma, come dire, una notizia in un'accusa di reato. Prego, Eugenio. Assolutamente sì, questo era il tema. Allora, in primis mi permetto di far notare che ci sono 10 persone che solo adesso, nel momento caldo della questione, vengono fuori con queste denunce. E tra le altre cose, una delle denunce che mi ha lasciato perplesso è quella dove lei ha detto mi ha chiesto di girarmi e mi si è incollato dietro. Sì, perché l'ha lasciato perplesso? Cioè, fatto, ti sei girata a sua richiesta? Questo è pazzesco. Cioè non si può denunciare una cosa del genere, perché io credo che se ti trovi in quella situazione praticamente giri le spalle, sì, ma non a lui, giri le spalle e te ne vai. Non puoi dire mi ha chiesto di girarmi e mi si è incollato dietro. Allora delle due l'una, o queste denunce poi fioccano perché a prescindere dall'approccio sicuramente che se è vero, sicuramente deplorevole da parte di questa persona, ma voi che non so se siate attrici, ragazze, non si capisce bene, perché poi quelle che hanno denunciato sono quelle che poi non sono andate avanti alla fine, che praticamente con questi approcci non hanno portato ai risultati sperati. Non sono un maschilista, anzi deploro queste azioni, perché le donne si conquistano in tutt'altro modo, d'accordo? Però non potete venire 10 persone oggi a venire a fare questo tipo di accusa, però dicendo: beh, io ci sono stata, mi sono girato, lui mi si è incollato dietro. Faccio solo l'avvocato del diavolo, perché le stesse cose che dice lei le dice Nancy Brilli oggi in un'intervista al Corriere. Uno ti chiede le misure, perché uno degli addebiti è aver discusso delle misure, certo, su WhatsApp. Digli che la tua agenzia manderà una scheda e troncala lì. Non si può stare in una simile conversazione con uno con cui vuoi lavorare. Lui ci sta provando, ma tu stai flirtando con lui. Poi lui ha chiesto una foto in reggiseno e una senza e Ferrero gliele ha mandate, ma si è rifiutata di inviare quelle del sedere. E risponde Nancy Brilli: qui siamo a Heidi, le caprette ti fanno ciao. Una donna adulta può essere così sprovveduta? Questi uomini devono vergognarsi, sono ricattatori, ma noi donne non possiamo spingere il gioco fino a un certo punto. Puoi dire ni, no, e solo allora ti puoi accorgere che era l'uomo nero. Cioè, questo per dire Nancy Brilli raccontando ovviamente di tutto quello che è successo, ma la regola di Nancy è: se è un'avanza sgradita bisogna andarsene subito. È un po' quello che dice lei, però le faccio solo questa precisazione. Probabilmente molte di loro volevano raccontare, ma lo hanno fatto solo quando è arrivato qualcuno a chiedergli di raccontarlo. Grazie. E Tiziano da Treviso. Sì, pronto, mi sentite? Sì, Tiziano, eccoci qui. Ecco, io non ho seguito tutta la trasmissione, sono... Capita a molti, non si preoccupi. Ecco, mi sono accettato una telefonata che ti ho fatto un signor, credo di... Non si capisce bene, però. Mi sente adesso? Ora sì. Ecco, dicevo che mi sono collegato nel momento in cui sentivo parlare un signore che credo di Napoli, che parlava di lauree all'estero. Sì, e diceva che quelle all'estero in Romania, per esempio, non sono affatto male. Ecco, allora, io sono medico e sono anche padre di due laureati in medicina in Italia. E le posso dire questo, per mia esperienza, ma credo di non poter essere, diciamo così, contraddetto facilmente. La laurea all'estero in medicina viene spesso utilizzata per bypassare il test obbligatorio di ingresso in Italia, che in Romania, come in Spagna, almeno per quanto riguarda l'Europa, non è obbligatorio. Quindi chi non passa il test di medicina in Italia va regolarmente o in Romania o in Spagna. Secondo, che la laurea in Italia, per quanto riguarda i 6 anni del corso di laurea magistrale, è considerato tra i migliori al mondo. Del resto, se si vuol fare una critica, si dovrebbe fare alle successive scuole di specializzazione, dove purtroppo si delega poco, nel senso che si fa poco tirocinio pratico, e questo per colpa non della istituzione università, ma dei singoli... Bene. Grazie Tiziano, abbiamo dato una finestra con due esperienze di vita vissuta. E con noi Massimo Giletti, buongiorno. Buongiorno, ciao. Buongiorno. Eroico Massimo a venire qui, lo racconto, perché queste ore della mattina, dopo che si è fatta una maratona notturna, sono drammatiche. A, per la stanchezza, B, perché alle 10 arriva l'Auditel ed è come il giudizio universale. Quindi grande a venire qui dopo una serata di una maratona così faticosa e avvincente. Però è l'esordio di Non è l'Arena. Pronto? Ormai con gli anni ho fatto abitudine ai dati Auditel che arrivano, sono un giudizio universale, cerco di farlo diventare almeno un giudizio più piccolo. Noi siamo una TV in crescita, importante, ma i dati contano fino a un certo punto. Chi fa informazione deve avere il coraggio di farla in un certo modo, indipendentemente dai numeri. Allora, TV Blog, che fa sempre i raggi X di una trasmissione, dice: non è l'arena, in fondo è l'arena. È la prima... come dire, affermazione forte di questo critico, in cui dice: c'è molta continuità con il passato. Ti offende, ti piace, è vero questo giudizio? Ma sai, io sono sempre Giletti, nel senso che questa esperienza mi ha marchiato molto, ma il mio modo di condurre le trasmissioni non è che perché io passo da un'altra, adesso se passo in un'altra rete non è che cambio il mio modo di essere, soprattutto l'idea che ho di inchiesta. È ovvio che chi guarda la mia TV ricorda e ritrova dei momenti, viva Dio, di informazione, liberi, non ideologici, e poi posso piacere o non piacere, ma io sono quello lì. Tre grandi argomenti trattati: il caso Tugliani con lo scoop di Bonistalli, che addirittura ha preceduto la messa in onda, pensioni e vitalizi, come dire, il tuo grande chiodo, e poi la vicenda delle molestie e come dire, il giro di accuse intorno a Brizzi. Quali sono le tue, i tuoi giudizi forti alla luce di quello che avete raccontato? Ma guarda, i giudizi sono che ovviamente quando uno fa un programma, come dici tu, quasi maratona, 4 ore, deve cambiare pagina, pur avendo pochissimi ragazzi che lavorano con me, perché siamo un gruppo ridottissimo, però non sono i numeri, no? Io ho sempre creduto nella qualità delle persone. È stato molto forte Tugliani, sì, perché è uno spaccato di questo paese, perché io quando penso a Fini, in cui ho creduto, quando andò in televisione a fare il primo messaggio dicendo io mi dimetterò, non c'entra niente Tugliani, ecco, quando uno ha una carica importante e va in TV sapendo addirittura di essere stato in quella casa, di aver comprato delle cucine, una cucina per quella casa, è pesante, ecco. Ecco perché la credibilità oggi della politica viene meno, ecco perché prevale il senso esasperato di Casa Pound. Non sono più credibili, io questo racconto nelle mie trasmissioni. Bisogna fare uno sforzo per tornare alla politica, perché la politica è l'unica cosa che salva un paese. Mi sembra importante, ci fermiamo solo un attimo per la pubblicità e poi torniamo con te. Mattino. Allora, fioccano messaggi sul caso di Brizzi, anche polemici, quindi il momento è grave per il regista e per il cinema, dicono a me, ma non perché ha subito violenza, neanche nel Medioevo si ragionava così, ma non è vero, perché io penso che sia gravissimo se sia vero, e quindi questo include ovviamente chi ha subito violenza, perché spero ancora garantisticamente che questa vicenda possa chiarirsi in un modo meno truce di come si sta delineando. Massimo, ne hai parlato a lungo ieri, che idea ti sei fatto? Guarda, io intanto i nomi, e questo è un mondo dove si fanno i nomi, poi bisogna parlare, più certo che una decina di ragazze dicono la stessa cosa, ovviamente poi nelle loro mani hanno, hanno degli elementi, in punto interrogativo sale, Brizzi nega tutto, io probabilmente spero di avere la prossima settimana l'avvocato di Brizzi in studio. Questa è una vicenda molto, cioè, rischia di fare un po' valanga, no? Travolgere tutto e tutti. C'è un lato di questa vicenda italiana che, però secondo me, lo dico da uomo, ha avuto il merito di provare quanto siano forti ancora le resistenze sessiste nel nostro paese. Perché a un certo punto io dico, forse hanno ragione i musulmani, no? Che coprono le loro donne, perché pare che il corpo femminile non abbia, non so, diritto di provare emozioni, desideri, sogni. No, gli mettiamo il burka e va bene. No, specifica che è un paradosso, se no qualcuno ti prende sul serio e dice Giletti vuole mettere il burka, no, lo dice per farci capire. Ci sono dei burka culturali ancora molto forti nel nostro paese. Io sto sempre dalla parte di chi è stata molestata e non da chi molesta. Cioè, l'attenzione morbosa su Asia Argento esasperata dimostra che in Italia, anziché parlare del molestatore, si accusa la ragazza perché non ha denunciato. È faticoso accettarlo da parte mia. Poi, per carità, ha anche ragione Massimo Fini sul fatto, no? Adesso non esageriamo, questa ondata di puritanesimo, moralista, sessofobico, però. Ma infatti io direi che i giornalisti fanno inchieste, producono delle ipotesi e delle testimonianze, poi quando queste testimonianze vengono suffragate, ovviamente diventano realtà. Giletti, ho visto il suo programma e mi è molto piaciuto, soprattutto la parte sulle molestie. Anna, una donna, quindi c'è stato un tocco di delicatezza anche nel raccontare questa storia, secondo le nostre ascoltatrici. Ma credo che tu, quando affronti queste situazioni, devi essere molto... Io, guarda, sono molto, molto attento, no, nel rispetto degli altri, perché una donna che subisce una violenza... poi si sente in colpa. Io ne ho incontrate tante, purtroppo, nella mia vita, e la cosa che mi faceva più fatica ad accettare era proprio la paura, il pudore anche di raccontare quello che, perché quando vai a processo subisci un'altra violenza, purtroppo. Quando vai a denunciare, oggi un po' meno perché ci sono dei reparti speciali della polizia, dei carabinieri, ci sono delle donne che ti ascoltano, subiscono ulteriori violenze. Questo noi non lo capiamo. Bene, e sentiamo una telefonata. Daniele da Roma. Sì, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, forte e chiaro. Allora, guardi, io volevo dire qualcosa in merito all'intervento di quel professore, diciamo quel dottore, che parlava dei quiz universitari. Beh, il discorso è semplicemente questo. La cosa più giusta sarebbe quella di far entrare tutti quanti al corso di laurea, però contemporaneamente fare in modo che entro il primo anno si tenga una media, ci siano dei risultati tali che possa essere giustificato il mantenimento all'interno di quella facoltà, perché altrimenti creare questi quiz, che se lei va a leggerseli sono una cosa quasi ridicola, parlano di tutto e di niente, molto spesso non attinenti con la facoltà a cui uno deve andare a, cioè che desidera poi frequentare, e quindi a quel punto diventa quasi una specie di gioco, una roulette, che poi può dar anche adito a pensare che in alcuni casi le domande, come tante altre cose, possano essere, una volta scoperte, date a chi si desidera che passi. Cerchiamo di capirci, un bravo professore non è detto che debba sapere, mi sembra di aver capito, io spero di aver capito male, addirittura sapere chi è che abbia vinto il Grande Fratello di 2 anni fa, una cosa del genere, o delle cose incredibili se deve fare medicina. La cosa fondamentale è: vogliamo avere dei bravi medici? Bene, senza dubbi, facciamogli fare il primo anno, dopodiché le persone che potranno dimostrare di valere vanno avanti, gli altri no, altrimenti perderemo magari l'occasione di avere bravi studenti. Tra l'altro poi c'è un giro di soldi sotto per quelli che non riescono a passare, meraviglioso, tra libri che costano centinaia di euro, cambiano ogni anno, e tante tante altre tasse che le nostre facoltà prendono comunque solo semplicemente per aver fatto il quiz. Daniele, per esperienze dirette anche in famiglia, so che è veramente un calvario, si fa la lotteria dei quiz, bisogna spendere, iscriversi in diverse facoltà e farne tanti, perché i risultati arrivano dopo, e quindi è veramente un impegno durissimo. Massimo, che cosa hai già in cantiere che puoi annunciare per la prossima puntata? Ma intanto voglio dire che secondo me questo signore conosce molto bene quel mondo. Poi io ricordo un'inchiesta che avevamo fatto, siamo andati all'Università di Bari. Ogni porta di un professore era collegata a un parente, un fratello, bravo, un figlio, quindi questo bravo. È un dramma, non dimentichiamocelo, che poi alla fine, se i nostri magari non sono preparati, probabilmente perché chi è arrivato insegna è scarso, io questo non lo dimenticherei. No, ma stiamo lavorando sul mondo della prostituzione minorile, ci sarà un'inchiesta su quello che abbiamo trovato. E poi credo che continueremo con la stretta attualità. Adesso, sai, noi guardiamo quello che succede intorno in settimana, la difficoltà di fare un programma, e tu lo sai bene, è quella di stare sempre attento a tutto quello che succede. Certo. Questo però è un punto di forza e di fatica. Allora, l'ultima telefonata e poi ci salutiamo. Fabrizio da Genova. Sì, buongiorno. Buongiorno. Niente, sempre io mi collego al discorso delle presunte molestie alle attrici da parte del regista Brizzi. Fermo restando che viviamo, secondo me, sulla corrente sempre dell'America. Nel caso, praticamente la corrente arriva in Italia con il regista più o meno noto in Italia. Sì. Due, voglio dire, sono cose... non lo dico a cuor leggero, ma sono cose che ci sono sempre state. Se poi vogliamo, diciamo, pararci, sì, gli occhi, far finta di non sapere e tapparci il naso, va bene, ma sono cose che ci sono sempre state. Non è detto che siano giuste se ci sono sempre state, però. Allora, Massimo, un saluto in un secondo, se ci vuoi lasciare la tua morale del giorno, come fa di solito Oscar Giannino. Che l'America ci ha insegnato che loro sono moralmente sopra di noi, dai Russiagate, Watergate. Da quello che sta succedendo a Hollywood, credo che abbia poca morale da farci. Grazie Massimo, buongiorno, ci sentiamo domani con cani, gatti e 24 mattino. Ciao!